Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, dopo aver ampiamente commentato ieri questo taglio a sorpresa dei tassi di interesse americani e aver anche detto che comunque la settimana, la seconda, terza settimana, che le borse, per carità, bene, dire che vadano bene è eccessivo, ma nemmeno male male, nemmeno come a settembre, ottobre, a novembre. Il dicembre sembra essere, con tutti i dubbi e le cautele del caso, un mese un po' più di assestamento, il che non vuol dire che poi dentro i singoli listini capiti un po' di tutto. Anche oggi MIB più 0,9, S&P MIB più 1,2, Dow Jones più 0,3, Francoforte più 1,5, Parigi più 0,4, Nasdaq, dicevo, più 0,6, Londra negativa di uno 0,16%. Ancora sui rapporti di cambio, che sono interessanti in questi giorni. L'euro continua a rafforzarsi, tutti in America 1,4357, 1,4363, siamo a quota 1,44 di nuovo. E non parliamo poi della Gran Bretagna, dove ormai il pence viaggia a 94, cioè un euro vale 94 pence. E se pensate che già la quota 90 era storica, siamo vicinissimi, mancano 6 pence al rapporto di cambio un euro, una sterlina. Lo diciamo spesso perché, insomma, la sterlina, finché c'era la lira, valeva 3.000 lire. E anche con l'euro il rapporto era ben diverso, 0,70, 0,60 in alcuni casi. Adesso siamo a 0,94. Ancora, per quello che riguarda i mercati, cito i migliori e peggiori di Piazza Affari. Saipem è la peggiore, meno 3%, con Finmeccanica meno 2 e Mediobanca meno 1,6. Molto bene Snam Rete Gas, più 7,4, Terna più 5,8, Alleanza più 4,6, come Intesa San Paolo. Telecom forte oggi, più 4,3% come A2A, Unipol più 3,6, in pregilo più 3%. Buzzi Unicem più 2,7, Unicredito più 2,5, Fastweb più 2, Mondadori più 1,86%. Ancora il mercato del petrolio e quindi i prezzi del petrolio. Beh, insomma, io penso che i paesi dell'OPEC debbano iniziare a mettersi una mano sulla coscienza e capire, forse eccessiva come frase, ma insomma capire in che mondo vivono. Qualche Rolls Royce in meno, qualche grattacielo in meno, qualche spreco in meno, perché il taglio alla produzione di barili di petrolio deciso ieri dall'OPEC, assolutamente ingiustificato, visto che il prezzo del petrolio viaggia ancora a 40, ma loro vogliono portarlo a 70, 75, 80 euro, 80 dollari al barile. Hanno tagliato ieri in maniera molto molto forte, mai così forte un taglio, 2 milioni e mezzo di barili. Li hanno portati a 28 milioni a questo punto, 27,7 milioni. E che cosa è successo? Prima il petrolio ieri ha perso il 10%, è andato a 40 dollari, da 44 a 40, e adesso è sceso anche a 37. Per cui andare contro una crisi economica e finanziaria di questa portata è difficile. Vediamo quale sarà la prossima decisione, anche perché, così iniziamo con le notizie in breve, oggi JP Morgan fa notare che il calo della domanda di petrolio si ridurrà nella maniera più forte dagli anni 80. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo con le notizie in breve. E partiamo dal calo della domanda di petrolio. Molti di voi ci hanno chiesto in questi giorni, ma insomma, come mai, se la domanda frena, se improvvisamente scopriamo che pochi usano il petrolio, tutti scommettevano a luglio a un petrolio a 180, 190, 200. Beh, ci sono vari principi. Certo, una parte era speculazione pura, ma si è scoperto, col senno di poi chiaramente, che molti erano fondi hedge o comunque fondi di investimento che, siccome stavano iniziando a perdere tantissimo sugli investimenti in prodotti tossici, quelli legati ai mutui subprime americani, ma non solo, cosa facevano? Puntavano tutti gli strumenti derivati e l'effetto leva, e scaricavano l'effetto leva sul petrolio cercando di guadagnare lì. Per cui era tanta carta che si spostava sul petrolio perché iniziava a puzzare in altri fronti o a essere tossica in altri fronti, e si spostava sul petrolio. Quando poi è venuto giù tutto, tutte le posizioni sono state chiuse. Ecco perché, tra le altre cose, c'è stata una spinta così forte per un petrolio che è arrivato fino a $147 al barile a luglio. Dicevo, il maggior calo, secondo JP Morgan, della domanda di petrolio nel 2009, 1 milione di barili in meno al giorno. Il prossimo anno, secondo JP Morgan, il prezzo del petrolio si aggirerà sui $43 al barile contro i 69 inizialmente previsti. Va detto che però oggi l'Italia ha pagato, è arrivato quasi consuntivo, una bolletta energetica che era più alta dai da record, 10 miliardi in più rispetto all'anno scorso, 56,7 miliardi, è il valore più alto della storia, cioè rappresenta il 3,6% di tutto il PIL italiano. Ma il motivo si chiama prezzo del petrolio fino a luglio, perché con un prezzo del petrolio che ha viaggiato sopra i $100 per buona parte per la prima metà dell'anno, era difficile pagare di meno. Per fortuna, oltre al prezzo del petrolio, continua a scendere anche l'Euribor. Il tasso è sceso al 3,13%, i minimi dal 21 luglio 2006. Noi continuiamo a ricevere segnalazioni di imprenditori e cittadini che invece non vedono questo calo nel valore dei mutui e nel costo dei prestiti, né vedono una grande voglia delle banche di erogare. Le LABI continuano a rispondere che invece gli impieghi ci sono, vengono richiesti di meno, vabbè. Per quello che riguarda, vedo che molti di voi sono interessati al rapporto di cambio euro-sterlina. Uno dei motivi per cui ormai la sterlina varrà un euro, quindi tendenzialmente scende a 1930 lire, è perché ci si attende un taglio dei tassi di interesse in Gran Bretagna ben più significativo di quello messo in atto dalla Banca Centrale Europea, e addirittura c'è chi dice anche la Gran Bretagna andrà a tassi zero come gli Stati Uniti. Si alternano le ipotesi in America su come traghettare fuori dalla crisi il mondo dell'auto. Addirittura oggi si è parlato, lo ha detto un portavoce della Casa Bianca, Dana Perino, di una bancarotta gestita e accompagnata. Da evitarsi, quindi, secondo la Casa Bianca, sarebbe solo la bancarotta disordinata. Abbiamo un po' di difficoltà a capire cos'è una bancarotta gestita e accompagnata, se non, vabbè, una bancarotta che viene gestita con i soldi dello Stato. Nel frattempo Chrysler ha chiuso tutti e 30 gli impianti dal prossimo 19 dicembre per almeno un mese. Le vendite di Chrysler a novembre erano crollate del 47%. E anche Ford ha annunciato un blocco di tutti gli stabilimenti a gennaio per una settimana in più del previsto, non tutti in realtà, solo 10 impianti. E il bollettino continua, la Volkswagen allunga le vacanze natalizie, le fabbriche del gruppo saranno chiuse per 3 settimane, 5 giorni in più di quanto di solito veniva fatto in Germania, meno 17% per le vendite di Volkswagen lo scorso mese. E ancora, per quello che riguarda l'Italia, oggi è arrivata una notizia che ha a che fare con le generali. Il mercato non è che abbia reagito tantissimo. Le generali hanno detto sostanzialmente che gli obiettivi del 2009 non sono più perseguibili e non sono più attuali. Il titolo sta perdendo un modesto 0,25%. Class action, verranno già detto i nostri GR, il Consiglio dei Ministri le ha fatto esitare il provvedimento di 6 mesi, speriamo che parta a giugno, perlomeno modificato secondo alcuni anche criteri che rendevano altrimenti questa class action un po' un po' caotica, e poi c'è il rapporto della Banca d'Italia sulla ricchezza delle famiglie. La ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta nel 2007, secondo la Banca d'Italia, dell'1,7% a prezzi costanti, per cui è un dato sostanzialmente buono riferito al 2007. Ma per quello che riguarda poi dove si concentra questa ricchezza, adesso vi faremo sentire anche una scheda che ricorda non ve la faremo sentire perché non è pronta. Allora andiamo avanti. Metà delle famiglie italiane detengono il 10% della ricchezza, a fronte di una media di 360.000 euro a famiglia. Praticamente il 10% del totale ha il 50% della ricchezza, così come il 10%, metà delle famiglie italiane deteneva meno del 10% della ricchezza totale. E allora, oggi, oltre alla Banca d'Italia, dicevo, rapporto BNL Einaudi, e allora sentiamo il curatore del rapporto Andrea Beltratti, al microfono la nostra Paola Cavadi. Perché nel rapporto BNL Einaudi oggi è venuto fuori che un italiano su tre il reddito che ha a disposizione non basta, e il 70% degli italiani non riesce a risparmiare. Per quanto riguarda il risparmio, osserviamo un certo aumento nella quota di chi non riesce a risparmiare, e sulla base dei risultati anche che ci sono sempre stati nel corso degli anni, in base a cui il risparmio è una virtù molto importante per gli italiani, interpretiamo questo come una difficoltà e non una mancanza di volontà di risparmio, e chiaramente, data anche la situazione esistente, lo leggiamo alla luce dell'esigenza di far fronte a dei consumi che non sono modificabili nel breve periodo. Quindi una situazione che è in un certo senso una risposta razionale da parte delle famiglie italiane allo stato di difficoltà. Qual è il dato? Il dato è un forte aumento che credo vada circa il 50% dello scorso anno, che era pari alla media degli ultimi anni, e che arriva quasi al 70% quest'anno, appunto, di percentuale di famiglie che non riescono a risparmiare. È aumentato dal 50 circa al 70% la percentuale di famiglie che non riescono a risparmiare. Il secondo tema importante riguarda gli obiettivi finanziari, e in questo senso non osserviamo grandi cambiamenti rispetto al passato, perché le famiglie italiane storicamente, almeno dal 2000-2001, cioè in seguito alla scorsa caduta dei mercati azionari, hanno degli obiettivi che sono estremamente precauzionali, molto avversi al rischio, e chiaramente non ci si poteva aspettare che la situazione corrente li modificasse, quindi una conferma dell'obiettivo di mantenere un forte controllo, un forte presidio sul rischio. Quindi cosa vuol dire questo, sempre per semplificare? Vuol dire un portafoglio molto sbilanciato verso titoli a reddito fisso, con una componente azionaria molto ridotta, una diversificazione internazionale anch'essa molto ridotta. Sono caratteristiche che nel medio-lungo periodo non sono positive per i rendimenti medi, ma che sicuramente, almeno nel corso del 2008, hanno consentito di attutire la caduta generale del patrimonio. Gli italiani sono molto attenti alla sicurezza, sono meno attenti, cercano di meno il rendimento di breve periodo, e questa è una caratteristica che abbiamo visto in forte aumento già dal 2000-2001. L'ultimo dato riguarda l'informazione, anche questa è una conferma rispetto a quello che si vedeva gli scorsi anni. C'è una parte molto importante di famiglie che si informa molto poco. Circa metà degli italiani affermano di non informarsi, in sostanza, per quanto riguarda la parte finanziaria, e degli altri le quantità dedicate al risparmio sono molto ridotte. Infine abbiamo anche provato a rivolgere qualche domanda in merito alla quantità e alla qualità dell'informazione finanziaria per la prima volta quest'anno, e credo si illustra qualche interessante problema di comunicazione fra chi offre informazione e fra chi domanda informazione, ovviamente con responsabilità divise fra entrambe le parti. L'appello è rivolto ai giornalisti e alle persone, cioè le persone devono essere le prime a desiderare di capire, di informarsi di più. Un articolo di giornale non è certo un libro di testo, quindi non può spiegare ogni volta dall'inizio alla fine tutto quello che succede. Deve essere sintetico, e quindi i giornalisti devono essere sintetici, informati, e naturalmente dare l'informazione in maniera corretta, non allarmistica, anche per quanto riguarda ad esempio i titoli dei giornali. Le persone devono essere desiderose di fruirne nella maniera più corretta. Allora, questo è una sintesi del rapporto BNL Einaudi. Un italiano su tre non ha un reddito a sufficienza, il 70% degli italiani non riesce più a risparmiare. Poi ci sono anche dei casi che raccontano, come spesso facciamo meglio di tante analisi com'è la situazione e come si cerca di affrontare questa situazione. Un'azienda, quella dei fratelli Gianni Renzo Revello, un'impresa, un'industria del veronese, 270 dipendenti e collaboratori, fattura 55 milioni di euro, ha deciso in maniera completamente autonoma di detassare la tredicesima. Fabbrica prodotti per l'odontoiatria, vuole dare infatti un segno di solidarietà nei confronti degli operai, ma anche un premio per gli obiettivi conseguiti nell'ultimo anno. E poi un'altra azienda, questa volta in Umbria, quando l'operaio diventa azionista, perché succede anche questo nell'Italia della crisi, praticamente la Umbria Cuscinetti, che è una società specializzata nella produzione di componentistica per l'industria aerospaziale, tra l'altro un piccolo gioiellino, ha annunciato l'ingresso nel suo azionariato di 37 dipendenti, a cui ha dato il 4,4% del capitale. Questo per dare fiducia non solo ai risultati aziendali presenti, ma anche a quelli futuri. In una fase in cui, tra l'altro, la crescita si contrae anche in quel settore. In questo scenario in cui si cerca comunque di fare qualcosa, alcune imprese cercano di fare qualcosa, la Confindustria ha chiesto per voce della Marcegaglia ieri con forza un tavolo, mettere assieme le parti, non basta il pacchetto anticrisi, modesto nei soldi oggettivamente, con tutto il rispetto che dobbiamo ai conti pubblici. Ebbene, arriva il dato sulla disoccupazione, al 6,1% nel terzo trimestre. È il terzo aumento tendenziale consecutivo, si porta così a 1.527.000 persone, un più 9% rispetto a un anno prima. E tra l'altro, questo è il numero di persone in cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione, che invece è un po' diverso perché va a vedere chi tra quelli che vuole un lavoro non ce l'ha, è aumentato di mezzo punto percentuale, al 6,1% la disoccupazione. Va bene, allora sentiamo al microfono del nostro Simone Spezia, oggi il responsabile Istat per le statistiche sul mercato del lavoro, Mario Albissini, mentre saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica alla Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera a voi tutti. Sentiamo intanto un primo commento di Albissini. Un mercato del lavoro che risente della fase ciclica negativa. Per il terzo trimestre consecutivo aumenta la disoccupazione, sia in termini di livello, cioè di numero dei disoccupati, sia in termini di tasso di disoccupazione. Dall'altra parte, il ritmo di crescita dell'occupazione rallenta in modo sostenuto. Siamo passati dall'1,4% del primo trimestre del 2008 all'1,2% del secondo trimestre del 2008 all'attuale 0,4%. E quindi la crescita degli occupati e la crescita dell'offerta non vanno interpretate in maniera eccessivamente positiva? No, direi proprio di no, nel senso che rispetto al recente passato tutte quante le indicazioni convergono nel dire che la crisi sta interessando anche il mercato del lavoro. I settori più colpiti, siete riusciti ad avere un quadro? L'industria in senso stretto registra la quarta riduzione tendenziale del numero degli occupati. Il servizi, il terziario, rallenta e rallenta di molto la propria crescita. Ci sono, a quanto sembra, dati positivi sul fronte dell'occupazione femminile? L'occupazione femminile ancora ha risentito di meno rispetto a quella maschile. C'è da dire che all'interno dell'occupazione femminile, diciamo, un contributo positivo è dato dall'immigrazione straniera femminile, in particolare nel settore dei servizi alle famiglie. Sul fronte territoriale invece le cose come vanno? Sul fronte territoriale purtroppo ancora il Mezzogiorno, che sembrava aver ripreso una dinamica almeno leggermente positiva nel passato ritorna a presentare una riduzione della domanda di lavoro e un 1% in meno, mentre invece il nord e il centro mostrano, anche se a ritmi più ridotti, ancora una dinamica positiva, anche in questo caso dovuto alla presenza, soprattutto in quei territori, di immigrazione. Allora, professor Della Ringa, di tutto quello che abbiamo visto era immaginabile che ci fosse una contrazione degli occupati e un aumento dei disoccupati, però di tutto quello che abbiamo visto, a me la cosa che ha più colpito è che per la prima volta cala anche, da un bel po' di tempo, cala anche l'occupazione maschile. Sì, sembra che innanzitutto l'occupazione è piatta, sembra che abbia raggiunto il punto di massimo e ricordiamoci, questo fa riferimento a settembre. I dati fanno riferimento a settembre, oggi siamo dicembre, quindi nel frattempo può essere peggiorata la situazione. Certamente si è raggiunto il massimo e l'occupazione è tenuta su, come abbiamo sentito, dalle badanti immigrate, che vuol dire che per quanto riguarda la popolazione locale probabilmente siamo già a settembre in fase negativa. Un po' è stata tenuta su anche dalle costruzioni, ma anche lì da immigrati. In ogni caso un settore delle costruzioni che io penso in questi tre mesi abbia già finito abbondantemente la fase espansiva. Quindi c'è solo da verificare, man mano che passa il tempo, l'intensità della riduzione dell'occupazione. Probabilmente nemmeno a dicembre, oggi, è successo granché, perché ricordiamoci i dati che ci vengono forniti dai quotidiani e dalle radio tutti i giorni riguardo la cassa integrazione. La cassa integrazione, lo sappiamo, è di lavoratori che risultano occupati. Poi una volta finita la cassa integrazione si va in mobilità, ci sono i licenziamenti e allora lì i dati... Ecco, no, questo è un punto importante, glielo stavo per chiedere con somma ignoranza, ma... Quando la cassa integrazione chiaramente per l'Istat non è disoccupazione, non lo è neanche nei fatti, va detto, però insomma c'è la possibilità che la crisi sul fronte occupazionale venga meno fotografata dai dati statistici, perché sperabilmente molti non saranno veri disoccupati o gente che perderà completamente il posto di lavoro, ma saranno cassa integrati? Non c'è dubbio, infatti io suggerisco a tutti coloro che devono analizzare l'andamento del mercato del lavoro di utilizzare, oltre ai dati Istat, anche i dati dell'INPS. I dati dell'INPS appunto registrano in tempi utili, reali, i cassi integrati. Cassa integrazione ordinaria per adesso, quella che si dà per ragioni congiunturali, ma quella ordinaria, se la crisi morderà ancora, passerà in cassa integrazione straordinaria. E da quella poi ai licenziamenti. Quindi ci vuole sempre così, la crisi produce effetti sull'occupazione con alcuni mesi di ritardo e quindi non bisogna troppo aggrapparsi ai dati sull'occupazione per dire che la crisi non c'è, perché appunto i dati sull'occupazione la registreranno solo con notevole ritardo. E questo è un punto molto importante naturalmente. D'altra parte le previsioni che vengono fuori ogni giorno, ogni settimana sono sempre peggiori. Ultima quella della Confindustria dell'altro giorno che parla di una perdita di posti di lavoro di 600.000 e soprattutto un aumento del tasso di disoccupazione dal 6 all'8 abbondante per cento, oltre 2 punti percentuali, il che vuol dire che avendo ridotto la disoccupazione di 5 punti percentuali in 8 anni, in 6 mesi, 7 mesi ci mangiamo metà dell'eredità accumulata in 8 anni. Guardi, mi verrebbe voglia di tirare fuori il gufo, ma che è un nostro animale che ci accompagna in questi mesi, ma non lo faccio. È importante quanto le diceva il professor Della Ringa, perché attenzione, lo dico a tutte le parti politiche, non certo solo al governo, ma usare l'Istat, il dato sulla disoccupazione e l'occupazione, per dire vedete, tutto sommato il mercato tiene, quando sappiamo che non fotografa la cassa integrazione ordinaria, non fotografa neanche la cassa integrazione straordinaria e fotograferà, se ho ben capito il suo ragionamento, professor Della Ringa, solo quando, noi ci auguriamo di no, questa cassa integrazione straordinaria dovesse diventare disoccupazione, vuol dire avere una fotografia molto in ritardo. Meglio guardare a cosa succede ai contributi INPS. Non c'è dubbio, anche perché quelli ci danno lo spaccato anche territoriale e settoriale. Ed è lì che dovremo stare molto attenti nel predisporre gli ammortizzatori sociali ed avere dei buoni servizi per l'impiego, perché occorrerà non solo sostenere i redditi, ma fare in modo che, primo, si ristrutturino i settori e le aziende per uscire dalla crisi più rafforzate, e secondo, gestire quella mobilità che permette di tenere la gente attaccata al mercato del lavoro, cioè che non ci abbandonino dopo aver fatto tanti sforzi per aumentare l'occupazione con tutte le leggi sulla flessibilità di 3 milioni di dipendenti. Sarebbe brutto perdere metà di questi in un anno per poi doverli recuperare con somma fatica. Grazie, grazie al professor Carlo Della Ringa per questa analisi importante, al di là delle cifre che abbiamo raccontato, e quindi poi nei vari settori l'agricoltura ha fatto un meno 3%, l'industria in senso stretto ha fatto un meno 1%, costruzione più 1,8, servizi più 1, a livello territoriale l'occupazione al nord ha fatto più 1,3, al centro più 0,3, al sud meno 1. Stiamo parlando di occupazione, ma anche se la cosa che a noi più interessa è la disoccupazione, e infatti la disoccupazione complessivamente è andata al 6,1%. La cosa importante che lei diceva, attenzione, la statistica in questi casi arriva molto molto tardi per un insieme di motivi. Il dramma o la difficoltà occupazionale per ora si scaricherà sulla cassa integrazione, e quello l'Istat non riesce a fotografarlo, meglio l'INPS. ...17:37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato di questi dati sull'occupazione, molti ce lo chiedono, l'occupazione è il numero di occupati tra tutti quelli che sono in età lavorativa, mentre la disoccupazione è il numero di persone tra quelle che stanno effettivamente cercando un lavoro. Per esempio, certe casalinghe non rientrano nemmeno nella categoria di chi cerca lavoro, certe neomamme che non sono interessate non rientrano, ma tra quelli che stanno cercando un lavoro, quelli che non ce l'hanno si chiamano disoccupati, mentre gli occupati sono gli occupati sull'intera potenziale forza lavoro. Ecco perché distinguiamo sempre. Il dato sul calo dell'occupazione è relativo appunto all'occupazione maschile. Anche la disoccupazione è aumentata al 6,1%, terzo aumento consecutivo, 1.527.000 disoccupati, più 9% anno su anno. Allora, andiamo ai mercati. Che cosa è successo oggi sui mercati? È successo poco, devo dire, ma meglio così, perché hanno chiuso in rialzo dell'1% sia l'S&P MIB che il MIBTEL, più 0,82% il MIBTEL, Francoforte più 1%, Londra meno 0,20%, l'America adesso perde lo 0,20%, Parigi ha perso lo 0,24%. La notizia resta un po' sui mercati, anche se adesso sta leggermente ritracciando, l'euro sul dollaro è a 1,43, mentre continua a crescere in maniera inarrestabile praticamente l'euro sulla sterlina, siamo a 94,7, ormai abbiamo anche 95 pence, è cosa di pochi giorni se continua così la parità, un euro, una sterlina, e si va tutti a Londra ai mercati. Andrea Fontana, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Le borse oggi sono apparse quasi normali, diciamo, cioè ognuna con la sua storia, in ordine un po' sparso, senza essere tutte nel gregge, senza seguire Wall Street. Wall Street perde qualcosa, ma Francoforte ha guadagnato l'1%, Parigi ha perso lo 0,2. Sembrava quasi una seduta normale, di essere tornati in un periodo normale. In calo complessivamente tutti i titoli legati al petrolio. A dirsi una giornata abbastanza nella norma, come tu ricordavi non c'è stato il faro di Wall Street che è stato molto incerto nella prima parte della seduta, per cui le borse sono andate un po' in ordine sparso. La più debole è stata Londra, proprio perché pesano di più i titoli delle materie prime, il comparto minerario strettamente legato all'andamento del petrolio, che oggi è sceso anche sotto i $38 al barile a New York. Quindi anche sul listino italiano Saipem, Eni, Tenaris, ERG e Saras, cioè società petrolifere o comunque le società legate ai servizi petroliferi come Saipem e come Tenari hanno accusato una battuta d'arresto. Il caso di Saipem è stata la peggiore dell'SPMIV, ha perso oltre il 4%, ma anche Eni ha perso l'1,5%. Sì, nulla di grave, siamo abituati, siamo gente di mondo, siamo abituati a ben di peggio in questi mesi. Bene però Snam Rete Gas, più 7%, questo va a contraddire un po' l'andamento dei titoli energetici. Come mai Snam va in senso contrario? Ebbene anche, così li metto assieme, A2A, più 5%, e un'altra utilities come Terna, più 5,9%. Insomma, tutte le utilities oggi in crescita netta. Esatto, è un fenomeno che ha interessato anche gli altri listini europei, quindi un effetto traino è venuto dall'intero settore, ma certamente su Snam Rete Gas hanno pesato positivamente anche le indicazioni arrivate da Merrill Lynch, che facendo un attimo di bilancio sull'andamento del titolo vede come il titolo rispetto al valore dei suoi asset è considerato a sconto, tratta a sconto di quasi l'8%, e quindi vede ancora del margine per crescere. Per questo che gli analisti di Merrill Lynch hanno indicato la raccomandazione comprare sul titolo, ma diciamo che l'attenzione sulle utility, e tu ricordavi in particolare su Terna, è data anche da questa operazione che questa mattina sulle 24 ore segnalava come ormai imminente, cioè la firma del passaggio di quello che resta della rete elettrica in mano ad Enel a appunto Terna per un valore di stimato dalle prime indiscrezioni intorno a 1,2 miliardi di euro. La transazione inizialmente secondo Enel doveva avere un valore di 1,4 miliardi, probabilmente Terna riuscirà a spuntarla spendendo un po' di meno, e in una giornata positiva per l'utente oggi anche Terna ne ha beneficiato, è salita quasi del 6%. Allora, qualcuno ci scrive al 349-238-6666, è il rally di fine anno. Bah, insomma, il rally di fine anno con borse che hanno perso da inizio anno praticamente il 60% l'S&P MIB, il 40-35% Londra, dovrebbe essere un rally di quelli veramente duri. Poi il rally non vuole correre più nessuno, quindi andiamo avanti con i titoli. Telecom Italia bene, più 4,8%. Sì, su Telecom oggi diciamo non ci sono notizie specifiche, c'è certamente un'attenzione sul comparto delle TLC e c'è una certa attenzione su titoli un po' dimenticati ultimamente, tant'è vero che per esempio si sono segnalati andamenti anche piuttosto strani come quello tra Generali ed Alleanza. Adesso dove ne parliamo infatti di Generali. Sì, esatto, mentre Alleanza è stato uno dei migliori guadagnando quasi il 3% e facendo meglio anche nelle ultime battute della seduta, dopo che appunto invece Generale aveva dato indicazioni poco positive sui target 2008 e quindi è andata in negativo. Un'attenzione che oltre a Telecom Italia è interessato anche il settore costruzioni, che a parte Telecom Italia ha interessato poi il settore costruzioni e anche qualche titolo finanziario, Intesa San Paolo, Fondiaria Sai ad esempio. Allora, adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi torniamo anche sulle generali, perché per fortuna, lo dico con estremo piacere, le generali oggi hanno annunciato che non confermano gli obiettivi del 2009, non sono più attuali, la definizione esatta, ma il titolo non ne ha particolarmente risentito. A chi ci chiede e ci scrive invece sul tema della disoccupazione, mi rendo conto che i dati occupazione e disoccupazione possano generare un po' di confusione. Restiamo sulla disoccupazione. La disoccupazione ha toccato il 6,1% del totale. Poi l'incremento è stato del 9%. Quindi 6 è il numero di disoccupati, 6,1 più 9 è stato l'incremento rispetto a un anno prima. Alcuni di voi ci segnalano, devo dire, da come scrivono, penso che siano piccoli imprenditori. Per ora ci siamo salvati con ferie, permessi straordinari e manutenzione straordinaria ai dipendenti. Da febbraio in poi saranno dolori. Allora, dicevamo di Generali, Andrea Fontana, per fortuna siamo contenti, il titolo non risente delle dichiarazioni del gruppo che dice insomma gli obiettivi del 2009 a questo punto non sono più attuali. Sì, ne ha risentito forse inizialmente arrivando a minacciare quota 19 euro al ribasso naturalmente, e poi diciamo che la ripresa è un po' un finale positivo da parte un po' di tutte i titoli, da parte di tutte le borse europee, ha permesso al titolo di limitare veramente i danni e perdere lo 0,5% e quindi riallinearsi a quota 19,5 euro. Come tu ricordavi, il Consiglio di Amministrazione Generali ha preso atto ormai che i target per il 2009 definiti inizialmente, però chiaramente in un quadro, in un contesto finanziario ed economico diverso da quello odierno, non sono da considerare attuali, e pertanto forse la notizia poteva anche essere chiaramente nell'aria, ma diciamo di queste indicazioni probabilmente dovremo aspettarcene diverse da parte soprattutto dei gruppi finanziari che oggi hanno un po' sofferto, forse più di Generali ha sofferto il suo azionista, diciamo così, di riferimento Mediobanca. Ecco, perché Mediobanca oggi ha perso quasi il 2% in una giornata in cui appunto i finanziari, ne cito alcuni, Intesa l'abbiamo detto più 5,8, ma insomma anche Alleanza più 2,9, Fondiaria più 2, Unicredito più 1,6, Banca Popolare più 1,3, sopra i 5 euro per azione, Banca Popolare di Milano più 0,7, Ubibanca più 0,7, Generali quasi il 2%, Mediobanca quasi il 2% di calo. Un andamento effettivamente anomalo rispetto al settore, tra l'altro domani è previsto il consiglio di amministrazione della banca, ma non sono attese novità particolari, non ci sono temi particolarmente caldi sul tavolo del consiglio di amministrazione di domani, quindi certamente l'andamento di oggi, soprattutto perché peggiore rispetto a quello di Generali, sensibilmente peggiore rispetto a quello di Generali, ha piuttosto sorpreso, non trova spiegazioni diciamo in indicazioni, in notizie di mercato o motivi fondamentali specifici. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Il peggiore Munich Re meno 9,4%, le Camfin meno 8,5%, il migliore Fortis più 17%, Tiscali più 11,3%, di nuovo voci. Andrea Fontana è ancora in collegamento, no, ci ha lasciato. SNAI più 10,4%, Pirelli Real Estate più 7,1%, e poi di SNAM Rete Gas abbiamo detto. Cambiamo tema adesso, anzi restiamo in tema di finanza, perché oggi, a margine della presentazione del rapporto BNL Einaudi, di cui torneremo a parlare nella seconda ora, il rapporto sul risparmio degli italiani, il presidente del gruppo BNL ha commentato al microfono della nostra Paola Cavadi, mi riferisco chiaramente a Luigi Abete, quali insomma saranno le conseguenze e eventualmente anche i vantaggi per i risparmiatori della discesa del costo del denaro, visto che ormai in America è praticamente a zero e forse anche in Gran Bretagna andrà a zero. Io penso che gli effetti sono già in atto, perché noi vediamo che ad esempio negli ultimi due mesi il tasso interbancario è sceso di oltre 2 punti, e questo quindi vuol dire che gli effetti di politica economica si ribaltano sui tassi di mercato e quindi sui clienti e sui risparmiatori. Quello che dobbiamo però capire è che in una situazione di estrema volubilità, quale quella nella quale ci troviamo, bisogna seguire questi eventi con continuità, bisogna informarsi di più, bisogna offrire maggiore informazione, bisogna essere preoccupati perché abbiamo una situazione certamente di recessione importante in atto in America e in Europa in modo particolare, ma abbiamo la possibilità di governarla. Se invece le spinte allarmistiche, quella che io chiamo la sindrome dell'apocalisse, si impadronisce anche delle persone razionali o delle persone che documentalmente possono spiegare perché bisogna essere preoccupati, ma non siamo, tra virgolette, in una situazione di gravità assoluta, allora potremo uscire da questa situazione, io spero, anche nella seconda parte del 2009. E quindi questo è il giudizio di Luigi Abete. Si diceva del rapporto BNL Einaudi, ma oggi non è stato l'unico rapporto, ne torneremo a commentare in una seconda ora del programma, non è stato l'unico rapporto sul risparmio uscito, vi è stato infatti anche il bollettino e il rapporto della Banca d'Italia, che per carità fotografa un'Italia al 2007, per cui quando parla di un italiano che riesce a risparmiare lo fa relativamente a un periodo che non era ancora stato coinvolto e travolto in alcuni casi dalla onda di piena della crisi dei mercati finanziari, però insomma nel 2007 la ricchezza delle famiglie italiane, secondo un'indagine della Banca d'Italia, aveva tenuto, tant'è che era cresciuta dell'1,7%, come ci ricorda e racconta questa scheda. Vale 8.512 miliardi di euro, il tesoro che gli italiani stanno difendendo dalle insidie della crisi finanziaria globale. A tanto, infatti, ammonta, secondo le rilevazioni della Banca d'Italia, il valore di immobili, titoli, azioni e depositi in mano alle famiglie italiane. Va detto che al momento si tratta di una difesa efficace. Seppur in rallentamento anche nel 2007, è infatti proseguita la crescita della ricchezza complessiva, aumentata dell'1,7% rispetto al 2006. Due i fattori che hanno consentito di parare i colpi più duri della crisi. Da un lato c'è la tradizionale prudenza delle famiglie italiane, che fa sì che il 60% della ricchezza sia costituita da abitazioni e terreni, e il rimanente 40% da attività finanziarie di varia natura. Dall'altro lato va sottolineata una certa lungimiranza. Alle prime avvisaglie di tempesta, i risparmi degli italiani si sono infatti rapidamente spostati verso approdi più sicuri. Già tra il 2006 e il 2007 si è assistito ad una fuga di capitali da azioni e fondi comuni in direzione di titoli di Stato ed obbligazioni. Alla fine, tra casa, risparmi ed investimenti, ogni famiglia italiana dispone di un patrimonio di 360.000 euro in media. Si tratta però di una media ingannevole, visto che il rapporto di Via Nazionale fotografa anche una forte diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza. In pratica, secondo gli ultimi dati disponibili, il 10% delle famiglie più benestanti possiede poco meno della metà di tutta la ricchezza nazionale. Viceversa, il 50% delle famiglie meno agiate ha in portafoglio appena il 10% delle risorse complessive. Un divario che tra il 2004 e il 2006 è tornato ad allargarsi dopo aver registrato una progressiva riduzione nei 6 anni precedenti. Particolarmente basso, infine, il numero di famiglie che hanno debiti superiori al loro patrimonio. Solo il 3% del totale, a fronte di percentuali sensibilmente più alte di Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Vabbè, almeno sapere che nel 2007 il risparmio, il patrimonio delle famiglie italiane aveva tenuto è già qualcosa. Poi immagino che dal 2008 le cose, temo, saranno cambiate. E 11 minuti, inizia la seconda parte di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, chiusa la parentesi di borsa e sentito anche il rapporto, lo studio della Banca d'Italia sul patrimonio e risparmio degli italiani, che nel 2007 non era andato male, era cresciuto a prezzi correnti dell'1,7%, dicevamo oggi però un altro rapporto, quello annuale della Fondazione Einaudi assieme al gruppo BNL, fotografa invece i primi problemi del 2008, ossia dice in sostanza che da un lato un italiano su tre ha un reddito non soddisfacente e il 70% degli italiani non riesce più a risparmiare. Va anche detto, visto che sono arrivati molti messaggi, che il rapporto della Banca d'Italia era relativo al 2007. Però diceva che a fronte di una media di ricchezza tutta compresa di 143.000 euro pro capite, immagino inclusi anche i beni immobili, perché sennò mi sembra un po' tantino, le risorse sono molto molto mal distribuite, cioè la metà più povera delle famiglie italiane deteneva nel 2006, addirittura il raffronto sul 2006, meno del 10% della ricchezza complessiva, mentre il 10% più ricco deteneva quasi metà, cioè quasi il 50% della ricchezza complessiva. Rapporto BNL Naudi di oggi invece sul 2007-2008, ascoltiamo dal microfono della nostra Paola Cavadi il curatore e l'economista Andrea Beltratti.

Il motivo per cui la sterlina sta scendendo così a precipizio è proprio l'aspettativa di taglio ai tassi. Di certo ormai è dato per scontato che quando ci sarà la riunione l'8, una settimana prima della BCE, della Banca Centrale Europea, un taglio di un punto da 2 a 1 ci sarà. Che poi vada direttamente a 0,75, 0,50 o ci vada in prospettiva molto a breve termine, cambia poco. I mercati hanno già scontato tutto questo e la sterlina sta scendendo a precipizio. Devo dire che a questo punto un altro dato è venuto fuori oggi insieme a quello della sterlina, cioè il fatto che stranamente, contrariamente alle aspettative, le vendite al dettaglio invece di cedere dello 0,6 come ci si attendeva, dopo essere scese dello 0,3 il mese prima, sono salite dello 0,3. Allora, da un lato ci sono campagne di saldi selvagge, e queste ovviamente qui anche certo, da noi in Italia, ma là sono 25-50% di sconti prima già di Natale. E dall'altro ci sono molti stranieri. Io stesso ho visto orde di italiani. Orde di italiani, sì, francesi, spagnoli, tutti esatto, con l'euro. Che approfittano della sterlina a buon mercato. Ricordiamo che solo negli ultimi tre mesi ha perso il 15%, insomma, non è poco, sull'euro. E anche sul dollaro ha perso molto, che approfittano e vanno. Quindi, però, malgrado tutto questo, uno 0,3 non è gran cosa. Quindi questo, se letto alla rovescia, fa pensare no, certo quanto che, male vadano le poi cose. Poi Londra, lasciamo stare il resto dell'Inghilterra, ma della Gran Bretagna, ma Londra non è certo una città economica. Quello che possiamo dire è che con un rapporto di questo tipo, 1-1 quasi, costa come Milano, come Roma, in rapporto euro-pound. E già, inizia a essere più interessante. Sicuramente non è una città, diciamo, economica in cui sì, andare a svernare se non si arriva alla quarta settimana. Ecco, no, però ricordiamo che 2 o 3 anni fa, se non sbaglio, c'era il picco di 1,75. Quindi, 1,75. Ragazzi, è sceso un sacco. Cioè, all'inizio dell'anno era 1,46, adesso 1, quindi 1, cioè 40. Un pound, per avere un pound occorre mettere 1,70 euro, adesso per avere un pound è 1,08 euro. 1,08 euro, beh, non male, non male, e soprattutto giustificato sui motivi di politica monetaria. Una ultima domanda, Marco Agnetta, continua a recuperare Gordon Brown nei sondaggi per come ha affrontato la sua la crisi economica? Cioè Angela Merkel è crollata perché le danno del retentenna, non vuole aprire il borsello, non si capisce quali siano le sue intenzioni. Il fenomeno opposto è capitato a Gordon Brown. Sì, se mi passi il termine del drogato, Gordon Brown è quello che sta dando un metadone all'economia britannica. Allora, alla cittadinanza va benissimo, perché questo con fiumi di denaro cerca di sostenere l'economia breve, e forse sta facendo l'unica cosa possibile, specialmente in un paese dove tutti sono indebitati, che si viene a chiamare i debiti in questo momento, non hanno più niente da dare. Però è un fatto che dall'altra parte, diciamo tra gli economisti e l'opposizione, è fortemente criticato, cioè tutti lo criticano come la Merkel, però è un fatto che come mossa politica è stata abile, e richiesti gli stessi conservatori cosa potrebbero fare loro di meglio, dicono beh, e in questo hanno ragione, non avremmo tagliato l'IVA del 2,5% a costo di buttare via 12 miliardi di sterline del bilancio, che tanto comunque i grandi magazzini facevano i tagli lo stesso. Gli sconti per i fatti. È stata una follia. Beh, non sarebbe male se anche da noi arrivassero sconti prenatalizi del 20%. Grazie a Marco Agnetta, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, oggi in studio con noi, sempre sulle proposte, sulle misure, ma questa volta per il turismo italiano, quella lanciata dal Confturismo, se l'IVA scendesse dal 10 al 5% avremo il 4,6% di occupati in più, cioè 200.000 occupati in più e un aumento consistente del giro d'affari. Ascoltiamo bene a bocca il microfono della nostra Paola Nania. Io credo che noi ci troviamo alla vigilia di una fase di recessione per l'economia italiana. Sicuramente il turismo subirà molto di questa fase di recessione, di un calo dei consumi interni. Credo che bisogna prevenire il male invece di curarlo dopo. La proposta che noi facciamo è con un'indagine scientifica che dimostra che qualora fosse abbassata l'IVA sul turismo, cioè portato l'aliquota IVA sul turismo italiano allo stesso livello di Francia e Spagna, questo significherebbe, è vero, da un lato minori entrate per le casse dello Stato, ma dall'altra parte renderebbe più competitivo il sistema turistico italiano, rilanciando gli investimenti, creando maggiori posti di lavoro, e quindi alla fine le minori entrate sarebbero compensate da maggiori entrate dovute allo sviluppo del settore. Sfonderemo finalmente il muro dei 3 milioni di posti di lavoro, oggi siamo circa 2 milioni e 600 mila, quindi questo significherebbe un aumento importante di posti di lavoro in una fase in cui leggiamo tutti i giorni sui giornali come le grandi industrie stanno mettendo lavoratori in cassa integrazione. Il turismo è l'unico settore in grado di dare posti di lavoro e dare occupazione, e quindi credo che vada aiutato questo settore. Senta, lei ha parlato della vigilia di un momento di crisi per il settore del turismo, al momento qual è la situazione quindi? Sicuramente è un anno turistico che si chiude col segno negativo. Abbiamo sofferto soprattutto nelle città d'arte, questo super euro ci ha fortemente danneggiato, una compagnia aerea che negli ultimi mesi è stata costretta a tagliare rotte internazionali per motivi di bilancio, il danno d'immagine che abbiamo ricevuto da Napoli, quindi sicuramente un anno non positivo. Ci eravamo preparati al peggio per Natale e Capodanno, devo dire che per fortuna la molta neve che è scesa sulle nostre montagne ci fa essere più ottimisti per il periodo Natale e Capodanno. E con questa proposta di Confturismo, la voce di Bernabò Bocca, si chiude questa puntata di Focus Economia. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Focus Economia.